In quel tempo si leverà Michele, il grande principe che sta a guardia dei figli del tuo popolo. Sarà un tempo di angoscia che mai c'è stata da quando ci fu un popolo fino a quel momento. In quel tempo il tuo popolo sarà salvato, ognuno che si troverà scritto nel libro. Molti di quelli che dormono nel paese della polvere si desteranno, questi alla vita eterna, ma quelli all'udibrio, all'infamia eterna. I saggi splenderanno come lo splendore del firmamento, e quelli che avranno condotto molti alla giustizia saranno come le stelle in eterno, per sempre. E tu, Daniele, tieni segrete le parole e sigilla il libro sino al tempo della fine. Molti scruteranno e la conoscenza crescerà. Io, Daniele, guardavo. Ecco, altri due stavano, uno di qua, sulla sponda del fiume, e uno di là, sull'altra sponda. Uno domandò all'uomo vestito di lino, che stava sopra le acque del fiume, a quando la fine delle cose straordinarie? Allora io udii l'uomo vestito di lino, che stava sopra le acque del fiume, alzando la destra e la sinistra al cielo, giurare per il vivente in eterno, per un tempo, per tempi e per mezzo tempo, quando si sarà finito di distruggere la forza del popolo santo, tutte queste cose saranno compiute. Io intesi, ma non capii. Perciò domandai: Signore mio, quale sarà il compimento di queste cose? Mi rispose: Va, Daniele, perché le parole sono scritte e sigillate sino al tempo della fine. Molti saranno purificati, lavati, provati, ma gli empi rimarranno empi. Tutti gli empi non comprenderanno, solo i sapienti comprenderanno. Dal momento in cui cesserà il sacrificio perpetuo e sarà innalzato l'abominio della desolazione, ci saranno 1290 giorni. Beato colui che aspetterà e arriverà a 1335 giorni. Quanto a te, va sino alla fine. Ti riposerai e quindi ti rialzerai per ricevere la tua parte alla fine dei giorni.